Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata. Rimettiamoci in macchina oggi perché, intanto a parte la brutta sorpresa del nuovo aumento delle tariffe autostradali, del quale parleremo domani a Salva Danaio, avete sentito anche il pezzo nel nostro giornale radio, perché oggi vi dico rimettiamoci in macchina perché di macchina parliamo e di un tema che per molti di voi e per molti di noi è un po' una nota dolente, il costo dell'RC auto. Sapete bene quante trasmissioni abbiamo dedicato a questo argomento e quanto anche vi piace polemizzare sul tema, perché oggi ritorniamo a parlare di questo, appunto, di questa tematica, perché sembrava essere arrivato alla fine del suo iter durato anni il decreto che vara le nuove tabelle di risarcimento per i danni fisici gravi in caso di incidente, riducendo gli attuali importi. Ecco, appunto, sembrava essere arrivata alla fine questo iter, quando invece il Ministero della Salute è tornato a congelare questo provvedimento. Gli effetti che avrebbero ridotto gli attuali importi sarebbero stati particolarmente rilevanti nell'RC auto, dove il 40% della spesa per sinistri si concentra appunto nei rimborsi a chi ha subito un danno biologico grave con invalidità compresa tra i 10 e 100 punti. Secondo alcune stime, le tariffe sarebbero comunque diminuite del 5%. L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus ha già battezzato questo provvedimento il decreto ammazza risarcimento. E per la verità, per quanto anche, come dire, nobile nell'obiettivo di voler arrivare ad una riduzione delle tariffe RC auto, le associazioni dei consumatori complessivamente hanno valutato in maniera contrastante, appunto, il provvedimento. Salva Danaio oggi ricostruisce questa vicenda, tornando a fare il punto sulla particolare e piuttosto anomala, come sapete bene, situazione italiana dell'RC auto, che vede costi record ma anche i rimborsi più generosi di tutta Europa. 800 24, rimborsi, indennizzi per chiamarli appunto con il loro nome. 800 24 00 24, il numero verde che vi permette di intervenire se vorrete in diretta nel corso della trasmissione, per raccontarci come la pensate e se sapevate da quali voci dipendono appunto i costi dell'RC auto. Se ci volete scrivere, il numero è il 349-238-6666 per un breve messaggio. Se ci volete scrivere invece una riflessione più articolata, nell'indirizzo di posta è salvadanaio@radio24.it. Con noi questa mattina ci saranno il collega del Sole 24 Ore Riccardo Sabatini, Roberto Laganà, direttore generale di Carige Assicurazioni, e Alessandro Santoliquido, direttore generale di Sara Assicurazioni. Prima di tutto questo, però, come sapete, c'è il consueto appuntamento con i mercati finanziari. E siccome anche oggi è una bella giornata, ci sembra utile e corretto enfatizzarla come si deve, visto che molto spesso molti ascoltatori si lamentano del fatto che quando le brutte giornate sono particolarmente brutte, noi stiamo lì a girare il coltello nella piaga, e invece quando sono discrete, appunto, non le enfatizziamo abbastanza. Invece per il secondo giorno consecutivo vediamo dei rialzi, anzi no, per l'ennesima giornata vediamo dei rialzi significativi sui mercati, al punto che ormai il Giappone e gli Stati Uniti continuano a macinare record su record. È successo ieri sera a Wall Street, è successo di nuovo questa mattina in Asia con il Nikkei, che ha segnato un balzo di quasi 2 punti percentuali. Per il mercato giapponese ormai siamo su livelli record, siamo sul livello più alto dal luglio del 2008, e come sapete tutta questa tendenza si è scatenata soprattutto da quando la scorsa settimana la Banca Centrale del Giappone ha varato una maxi iniziativa di stimolo monetario, che peraltro è stato anche il tema affrontato ieri a Salva Danaio e più volte negli ultimi giorni. Stamattina l'Europa risponde coralmente anche a quello che succede sulle altre piazze internazionali. C'è un guadagno di oltre 0,5 punto percentuale su tutte le piazze, con l'unica eccezione di Londra che segna più 0,27%, Milano più 0,49%. Su Milano oggi si estende anche il beneficio del buon risultato per il secondo giorno consecutivo dell'asta di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato 4 miliardi di euro di BTP a 3 anni, con il rendimento che è sceso dal 2,48% dell'asta precedente al 2,29% di stamattina. Per il BTP a 15 anni ne sono stati collocati 1 miliardo e 660 milioni di euro, il rendimento si è attestato al 4,68% dal precedente 4,90%. Buona la risposta anche per il CCT con scadenza 2017, anche in questo caso appunto rendimenti in ribasso. Tutto questo è molto importante perché c'è uno spread in discesa, si sta lentamente riportando il differenziale fra Italia e Germania sui 300 punti base, con l'obiettivo di scendere anche sotto. Ieri rendimenti ai minimi storici per quello che riguarda i bot collocati appunto nell'asta del Ministero dell'Economia, e tutto questo in attesa lunedì prossimo del collocamento della quarta tranche del BTP Italia, tema al quale dedicheremo appunto appositamente la puntata anche di Salva Danaio. Direi che per quello che riguarda la borsa la possiamo già lasciare. Sì, vi do magari i 2-3 migliori titoli. Monte dei Paschi balza anche oggi di 5 punti, Mediaset più 3,33, Saipem più 2,68. Andiamo subito al tema di oggi: RC Auto e risarcimenti. L'RC Auto italiana, si sa, è la più cara d'Europa. I prezzi continuano a salire e tanti automobilisti non sono più in grado di permettersela. Al punto che, secondo i dati dell'ACI, quasi 3 milioni di veicoli circolano ogni giorno senza copertura assicurativa. Alcune cause di questa anomalia sono ormai note, a partire dalla scarsa concorrenza e dai tanti casi di frodi assicurative. Molti non sanno però che il 40% della spesa per sinistri si concentra nei rimborsi a chi ha subito un danno psicologico grave, con invalidità compresa tra 10 e 100 punti. L'Italia è il paese europeo che offre i risarcimenti più elevati, soprattutto per le maggiori invalidità, rimborsando gli automobilisti molto più di quanto l'INAIL faccia con gli infortunati sul lavoro. Per questo si discute da tempo della possibilità di modificare le tabelle di risarcimento per i danni fisici gravi, riducendo gli attuali importi. Un'iniziativa che, con il governo Monti, stava per essere recepita con un decreto. Ce lo si aspettava proprio in questi primi giorni di aprile. Ma il Ministero della Salute ha deciso di congelare la questione. Renato Balduzzi ha preferito prendere tempo, mettendo attorno a un tavolo tutte le associazioni interessate al provvedimento. Il tema, in effetti, è molto delicato. La riduzione dei risarcimenti non piace, infatti, alle organizzazioni che raccolgono i familiari delle vittime degli incidenti. La revisione di queste tabelle garantirebbe l'uniformità a livello nazionale dei risarcimenti, che oggi sono decisi dai singoli tribunali, dando un po' di respiro a questo mercato, con una riduzione delle tariffe stimata tra il 3 e il 5%. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi in diretta, ma naturalmente a me, come sempre, da Alice nel Paese delle Meraviglie, la prima domanda che subito viene: ma tutta questa battaglia che si deve fare porterebbe, secondo qualcuno, ma anche secondo me, un taglio dei risarcimenti fino al 40% per ottenere un beneficio a vantaggio del consumatore in termini di taglio delle tariffe solo del 5%? Boh, queste percentuali a me non tornano, ma adesso ne cerchiamo delle spiegazioni appunto da parte dei nostri esperti. Prima di tutto però Riccardo Sabatini, intanto buongiorno Riccardo, tra l'altro so che può stare con noi solo per pochi minuti perché lo disturbiamo peraltro nel corso di una trasferta, ma ti chiedo intanto perché il ministro Balduzzi ha congelato il provvedimento, perché il governo comunque ormai è oltre ogni limite operativo, oppure ci sono anche altre ragioni? No, ha esitato perché voleva capire bene chi avesse ragione in questa contesa. Il problema è che questo decreto è alla sua firma da oltre un anno e dopo un iter lunghissimo che è durato per 6 anni, e pertanto a me sembra francamente un po' bizzarro che un ministro non faccia quello che dovrebbe fare e soltanto ora si ricordi che forse c'è un problema da discutere, insomma. Quindi un iter durato 6 anni per il quale si doveva concretizzare appunto il provvedimento quest'anno viene rinviato di nuovo. Con un piccolo problema, che se effettivamente si fa questo tavolo e le parti ricominciano a discutere e il testo che il Ministero della Salute, non quando c'era Balducci, aveva già approvato, viene modificato. A questo punto ricomincia tutto da capo, perché deve passare il concerto di altri ministeri, di nuovo all'esame del Consiglio di Stato, e quindi si rischia che ricominci una via crucis di altri anni. Certo, ecco, e intanto le tariffe dell'RC Auto, appunto, per la verità, non solo non diminuiscono, ma anzi continuano a lievitare, anche a causa di questi problemi, perché appunto in molti ritengono che i risarcimenti per tutta una serie di tipologie di danni, quelli anche molto gravi, per i quali per la verità io ritengo che i risarcimenti molto alti siano dovuti, e appunto i risarcimenti comunque rispetto ad una panoramica europea sono estremamente elevati. Ancora così, Riccardo, oppure la solita, come dire, considerazione all'italiana, perché ormai ci distinguiamo in tutti i campi in termini negativi, eppure anche in questo, ma è veramente una situazione concreta? No, il fatto che i risarcimenti in Italia sono i più alti d'Europa, credo che nessuno lo può discutere, come anche il fatto che segnalava la scheda che i risarcimenti per l'RC Auto sono molto più elevati di quanto l'INAIL risarcisce gli infortuni sul lavoro, e che francamente sembra anche lì una cosa che non sta in piedi. Ma tu la vedi possibile una riduzione del 40%? Perché voglio dire, se questa è una media, significa che qualcuno verrà addirittura mi spieghi. I conti vanno fatti giusti, per così dire. Allora, c'è una differenza di stime. Gli assicuratori sostengono che questa nuove tabelle porterebbe una riduzione degli attuali risarcimenti del 10%, poiché le spese per i danni fisici gravi è una porzione del 40% dell'insieme dei risarcimenti della RC Auto, scusate le troppe cifre che vi sto dando. Fatti i conti, una riduzione del 10% sul 40% comporterebbe sulle tariffe RC Auto una riduzione più o meno del 3-5%. Quindi una battaglia che va avanti da 6 anni, per essere stata di nuovo sospesa, per arrivare ad una potenziale diminuzione di un premio che un assicurato paga ogni anno del 5%. Con la differenza però che in questa industria, possiamo chiamarla così, dei sinistri dell'RC Auto, non è un rapporto soltanto fra consumatori e assicurazione, che detta fra noi in questa vicenda sono sullo stesso lato del tavolo, perché anche i consumatori avevano richiesto l'avvio di queste nuove tabelle per risparmiare sulla loro spesa dell'RC Auto. E il problema è che ci stanno gli avvocati che fanno le cause, che hanno vantaggi naturalmente quando un contenzioso è elevato. Più elevato è possibile, più elevato è, più loro guadagnano. Mm-hmm. Poi ci sono i carrozzieri, i procacciatori, tutte le agenzie che in questo paese si occupano di comporre liti giudiziari oppure di avviarle. Certo. Quindi c'è tutta un'industria al seguito delle RC Auto. E c'è poi anche il fatto che questi risarcimenti, comunque, soprattutto è chiaro, per le situazioni molto più delicate e problematiche, li stabiliscono i tribunali. No, sì, appunto, qual è il problema? Fino ad oggi sono stati stabiliti dai tribunali, soprattutto da quello di Milano. Il problema dei tribunali, in effetti sarebbe la cosa più giusta, perché i tribunali hanno modo di gestire cause concrete e la loro giurisprudenza potrebbe stabilire effettivamente una equità nei risarcimenti. La questione è che quando i tribunali determinano le loro tariffe di risarcimento non si preoccupano di capire gli effetti che avranno economici, non si preoccupano di fare delle discussioni aperte, pubbliche. Perché secondo te dovrebbero preoccuparsi degli effetti economici che un risarcimento molto pesante ha, cioè la ricaduta che ha per esempio sulla compagnia? Ma se io in un incidente mi si trancia una mano, non posso più fare il mio lavoro perché scrivo, perché sono una giornalista, è chiaro che magari la compagnia vorrà darmi una determinata cifra, il tribunale forse nel tentativo di tutelarmi, spero, vuole stabilire una cifra diversa. È indubbio il fatto che c'è un danno economico e quello ti verrà risarcito, non è questo. Qui stiamo parlando del danno biologico, cioè quanto vale la mano, no? E la mano di tutti i cittadini è sacra, è una cosa importante, non stiamo qui discutendo. Sicuramente, per un chirurgo però magari il valore è diverso rispetto ad una persona che fa un altro tipo, a parte che la mano credo che abbia il valore per tutto, adesso forse ho fatto l'esempio quindi, meno significativo. Esclusivamente il danno biologico si sta discutendo, non il danno economico che ho capito. Quindi è quello il problema. E naturalmente anche il fatto che un cittadino va in un ospedale e è curato in un certo modo, pure quello in astratto potrebbe essere curato 50 volte meglio. Però c'è un problema di risorse economiche che un paese ha. Ora, questa questione dei gravi danni fisici riguarda l'1% degli automobilisti italiani. Gli altri 99 però ne sopportano le conseguenze. Ora, un paese serio dovrebbe mettere tutte le ragioni degli uni e degli altri e stabilire una linea equa di ripartizione delle risorse poche che abbiamo. È assurdo che in un paese, in un momento in cui tagliano la sanità, tagliano la previdenza sociale, la gente non ha lavoro, e che succede? Che noi abbiamo il sistema di risarcimenti RC auto più elevato d'Europa, se non del mondo. Questo allora, è francamente... Grazie Riccardo per averci aiutato a ricostruire un po' i contorni di questa vicenda, che rimane comunque complicata ma anche congelata. Lo ribadisco appunto agli ascoltatori, che peraltro stanno già chiedendo quindi che cosa cambierà qualora mi dovesse capitare un brutto incidente. Al momento non cambia nulla, perché appunto tutto è stato di nuovo congelato, come abbiamo già ricordato all'inizio. Adesso c'è di nuovo, ci dovrebbe essere, non so se con questo ministero attualmente in carica per il disbrigo degli affari correnti o il prossimo appunto governo, qualora si dovesse formare. Comunque un nuovo tavolo appunto di discussione dovrà essere convocato. Nel frattempo noi naturalmente gestiamo le questioni sulla base della normativa attuale. Ho fatto parlare fino a questo momento solo appunto Riccardo Sabatini, perché adesso lascio, che è impegnato con un lavoro a Roma, dopodiché tutta la seconda parte della trasmissione la spendo con Roberto Laganà e Alessandro Santoliquida, a cui chiedo ancora un minutino di pazienza prima della pausa. Però sicuramente possiamo già sentire un caso concreto, quello di Roberto da Parma, che magari ci dà anche materia utile per proseguire la nostra puntata e la seconda parte. Roberto, buongiorno. Buongiorno, salve. Pronto? Sì, ci siamo, Roberto, ci dica. Io sono un utente che ha avuto un incidente maggio dell'anno scorso. La scorsa settimana ho fatto l'ultima visita legale con l'assicurazione e chiedevo per me cosa può cambiare. Io avrò un'invalidità del 5-6%, un periodo di inabilità parziale temporanea di 6-7 mesi, però mi chiedevo, a seconda del momento in cui io otterrò il risarcimento, posso avere discrezionalmente una percentuale che varia. Mi sembra un po' anche pretestuoso il fatto di pensare che una percentuale alta di invalidità debba essere risarcita in un modo e un'altra percentuale in un altro. Di per sé la percentuale identifica il danno. La sua, già... Roberto, chi l'ha stabilita? È dovuta andare in causa presso un tribunale? Io appunto, ho fatto una mia perizia personale attorno al 6%, ne ho un'altra attorno al 5% della controparte. Quindi su per giù comunque coincidono, lì non ha dovuto scatenare un gran conflitto. Ecco. Fisiologicamente credo che queste pratiche abbiano sempre questo tipo di approccio. Non certo andrò in causa per un punto percentuale, anche se non ho ancora un'offerta, non ho ancora trattato l'operatività. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Il Ministero della Salute ha riaperto i giochi sulle nuove tabelle risarcitorie dei danni fisici gravi. Nei giorni scorsi era sembrato che il ministro Renato Balduzzi fosse pronto a presentare alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri il provvedimento che ridetermina i rimborsi per coloro che hanno subito gravi menomazioni fisiche in seguito ad un incidente. Poi tutto l'iter è stato di nuovo congelato. Per la verità, questa revisione delle tabelle è attesa da moltissimi anni. E qualcuno, Alessandro Santoliquido, direttore generale di Sara Assicurazioni, ha già parlato di un grandissimo regalo alle compagnie di assicurazioni qualora il provvedimento passasse secondo le modalità con cui in questo momento è formulato. Che ne dice? Ma direi che si vede, buongiorno a tutti prima di tutto, direi che come al solito si vede solo un lato della medaglia. Il tema di abbassare i costi dei risarcimenti e portarli a livelli più vicini a quelli europei non è un regalo alle compagnie, ma è un modo per cercare di abbassare i nostri prezzi delle RC auto e portarli a livelli più vicini a quelli europei. Quando noi confrontiamo i prezzi delle RC auto e diciamo che sono i più alti d'Europa, non possiamo però ignorare che i nostri risarcimenti sono molto, molto generosi, che per esempio sui danni fisici gravi di cui stiamo parlando, sui danni mortali, possono essere anche 3, 4, 5 volte più elevati di quelli che si pagano in Germania, in Francia e in Spagna. E quindi non lo ritenete affatto un regalo, ma un modo per poter finalmente arrivare ad una riduzione appunto delle tariffe, dei premi appunto che poi ogni consumatore anche paga. Chi parla di regalo alle compagnie, in realtà, a parte la situazione vittime della strada, che ovviamente Tra l'altro abbiamo un collegamento telefonico tra poco di un ascoltatore che spontaneamente ci ha chiamato e fa parte proprio di questa associazione, poi lo sentiamo. Che ha avuto un trauma, quindi è da considerare con particolare attenzione. Però tutte le altre organizzazioni che si sono lamentate di questo problema sono le organizzazioni che campano sui sinistri, sono avvocati, infortunistiche, e quindi sono persone che guadagnano in percentuale quello che è il risarcimento. Voglio dire, l'assistenza in questo caso non è che verrebbe a mancare, si tratta solo di stabilire per una determinata tipologia, che poi possiamo anche, se mi aiutate a capire, elencare qual è effettivamente la tipologia appunto di sinistro che verrebbe ad essere risarcita in misura inferiore. Certo. Però voglio dire, certo, l'ammontare del risarcimento sarà meno interessante magari per un legale, questo però non significa che verrebbe a mancare l'assistenza nei confronti appunto dell'interessato per tutto l'iter anche conflittuale che si dovrebbe scatenare. Però capisco anche la loro posizione. Molto spesso anche una famiglia che si imbatte in condizioni, in situazioni di questo tipo, non è sicuramente lucida da poter stabilire qual è l'ammontare giusto per un danno gravissimo che ha subito appunto questo nucleo familiare, quindi magari ha bisogno anche di essere supportata in termini legali. Voglio sentire un commento anche di Roberto Laganà, Carige Assicurazione, direttore generale, buongiorno. E poi commentiamo, se vuole, appunto, direttore, mi pare di capire che è con un viva voce, che ho già sentito una cosa che non mi piace. Sì, sono con un viva voce. No, la prego di prendere la cornetta immediatamente, perché sennò non la sentiamo per niente. Se vuole anche commentare, se lo avesse sentito prima, il caso dell'ascoltatore di Parma, che ha subito appunto questo incidente, è stato protagonista di questo incidente nel maggio dello scorso anno, adesso gli è stata riconosciuta questa invalidità, ma in qualche maniera, come dire, considerava un po' pretestosa la modalità di contabilizzazione, passatemi il termine, delle percentuali appunto di invalidità. Allora vado a Santo Liquido, Alessandro. Allora, Santo Liquido. Il tema l'ascoltatore chiedeva cosa sarebbe successo nel suo caso. Sì. Siccome l'ascoltatore ha un'invalidità che è tra il 5 e il 6%, in realtà nel suo caso non cambia assolutamente niente, perché questo provvedimento di cui si stava parlando riguarda l'invalidità dal 9 al 100%, quindi l'invalidità più grave. Quelle fino al 9%, e quindi anche quella che ha subito il nostro ascoltatore, è già regolamentata una legge del 2001 che ha fissato dei valori uniformi sul territorio nazionale che vengono aggiornati periodicamente per l'inflazione. Quindi non si stava parlando di invalidità, diciamo, piccole e medie, ma si parlava di invalidità un pochino più grandi. Roberto Laganà, ce la facciamo adesso a sentirci bene? Ci eccoci, sente? Eccoci qua, molto meglio. Grazie, sì, adesso molto meglio. Bene. Volevo chiedere anche a lei una considerazione su tutta l'impostazione un po' dell'argomento, che facciamo anche un po' di fatica a far capire ovviamente ai nostri ascoltatori, che dicono: ma insomma, per un danno ovviamente molto importante, per una menomazione fisica molto importante, io mi aspetto solo di essere risarcito alla grande, se questo pregiudicherà in futuro la mia vita, appunto la mia professione e quant'altro, per cui forse è molto anche difficile far capire l'importanza di questo dibattito ai nostri ascoltatori, soprattutto quando sentono parlare di una potenziale riduzione tariffaria del 5%. Certo. Direttore, che dice? Allora, dunque, intanto volevo riprendere un secondo le argomentazioni di Alessandro, aggiungendo che non è, appunto, condivido quanto ha detto, che non è un regalo alle compagnie di assicurazione, ma sostanzialmente può essere un contributo a livello sociale per il costo assicurativo. Le compagnie di assicurazione non fanno altro che trasferire i costi, no? Quelli che sono i costi dei sinistri sulle polizze. In realtà il settore, anche nel 2011, in questo rischio vede una perdita delle compagnie di assicurazione, quindi è un settore dove le compagnie stanno perdendo, quindi evidentemente non è a beneficio soltanto delle compagnie. Lei pensi con che difficoltà possiamo far passare questo messaggio agli ascoltatori, che pur essendo magari la totalità di quelli che ci ascoltano dei conducenti virtuosissimi, in realtà da qualche anno a questa parte vedono le loro tariffe esplodere, non ci stanno più dentro? Certamente. La Ganà, quindi dobbiamo fare veramente un esercizio. Perché è una rincorsa evidentemente ad inseguire quello che è il costo del sinistro, che sta ormai da anni aumentando in modo esplosivo. Per tornare all'argomento della giornata, il decreto riguardava, come ricordava Alessandro, soltanto le invalidità oltre 10 punti percentuali. Ecco, qui bisognerebbe fare un passaggio logico sui titoli di danno di risarcimento che vedeva fino ad oggi e che vedono ancora essere applicati, e si parte dal danno biologico, che è esattamente il danno dell'integrità psicofisica, diciamo, della persona, e su quella valutazione il nuovo decreto ha indicato dei valori che sono mediamente ridotti del 10 massimo 15%. Questo è il primo elemento di cui si deve prendere quindi coscienza. Non una riduzione dei risarcimenti potenziale del 40%, che c'è questa cifra che continua a circolare, tale per cui effettivamente tutti guardano con grande perplessità tutta la discussione che si fa, no? Perché 40 verso 5 è assolutamente una sproporzione, certo, inaccettabile, certo. Partiamo da questo primo elemento, quindi il primo titolo di risarcimento, che è quello del danno biologico, vede questa riduzione che io le ho appena citato. Dopodiché c'è un altro titolo di risarcimento, che è quello del cosiddetto danno morale, che non è stato cambiato, perché questo si fa sempre riferimento a una maggiorazione del 30% sul danno biologico, e questo era quanto viene oggi applicato e quanto il decreto propone. Quindi è possibile, direttore, fare con un esempio pratico appunto una spiegazione per far capire effettivamente il peso di queste percentuali che stiamo dando, facendo, ma io poi so che non possiamo assolutamente semplificare temi così delicati. Facendo un esempio con un incidente concreto, no? Certo, un incidente concreto, guardi, una persona di 35 anni che ha un'invalidità di 10 punti percentuali, prima aveva diritto, cioè prima ancora oggi purtroppo ha diritto a un risarcimento di circa 18 milioni di euro, e con le nuove tabelle proposte sarà 16,2, quindi un decremento del 10%. Le do un'altra esemplificazione: 20 anni, un IP molto grave del 90%, si passa da 647 mila euro a 586 mila euro. Che cos'è un IP, direttore? Del 90%, quindi un'invalidità no, molto... No, ha detto prima una cosa, un IP, non ho capito bene. No, una persona di 20 anni sì. Che ha una invalidità permanente... Un'invalidità permanente, ecco, non capivo che cosa significasse IP. Scusi, ecco una qua. Invalidità permanente di 90 punti percentuali, quindi una invalidità molto grave, e passa da 647 mila euro a 586 mila euro, quindi una riduzione del 9%. Ci sono casi che arrivano al 14%, per esempio un sessantenne con un'invalidità permanente di 50 punti, eccetera, ma mediamente si va tra il 9% e il 15%. Quindi, a questo risarcimento solitamente viene aggiunto, può essere aggiunto, un risarcimento a titolo di danno morale. Che è però 30% della base, quindi questa percentuale non è cambiata col nuovo DPR. Non so se sono chiaro. No, è stato chiarissimo, ecco, con gli esempi. Quindi, tutto questo spalmato su tutta la collettività naturalmente dovrebbe portare alla possibilità di rimodulare anche appunto poi le tariffe che tutta la collettività di automobilisti paga appunto per il premio periodico per l'RC Auto. Allora, adesso ci fermiamo, scusatemi perché ho i suggerimenti perché in viaggio, ma forse riesco a mettere dentro anche un altro ascoltatore prima della pausa, Roberto da Livorno. Buongiorno. L'abbiamo fatto aspettare un po'. Roberto, ci dica. Sì, buongiorno. Aspetta un po', comunque se ora posso parlare. Roberto, io però la sento malissimo, veramente, con questi telefoni siamo, non so se siamo sfortunati o se viaggiate tutti col viva voce, con gli auricolari. Beh, fate bene, per carità del cielo, però se volete stare al telefono con la radio, fermatevi un attimo e prendete la cornetta regolare. E naturalmente non mancano i commenti piuttosto coloriti da parte degli ascoltatori. Max da Bologna dice: ma quando le compagnie liquidano milioni di euro ai loro CDA, ai loro dirigenti, se ripongono tutti questi problemi di impatto economico sulla compagnia? Non giro, per essere cortese, questa riflessione ai miei ospiti. Ritorniamo sul tema di cui parliamo questa mattina, sul quale invece c'è ben poco da ridere, quando si verificano incidenti gravi e gravissimi per i quali chiaramente poi le famiglie delle persone vittime di questi incidenti si aspettano dei risarcimenti che molto spesso servono ad andare avanti appunto nel corso della vita, a sostenere tutto il peso delle conseguenze appunto di questi danni. Volevo sentire Stefano da Bologna all'800240024. Io l'ho citata l'associazione appunto delle vittime della strada, appunto l'associazione italiana familiari e vittime appunto della strada Onlus. Stefano, buongiorno, che ha parlato di questo provvedimento congelato al Ministero della Salute come decreto ammazza risarcimenti, però adesso a parte le definizioni, Stefano, ci interessa capire cosa state facendo voi. Buongiorno intanto. Sì, intanto buongiorno. Noi come associazione vittime della strada abbiamo partecipato a tutti gli incontri preliminari con il Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di frenare quello che è non è solamente un decreto ammazza risarcimenti, ma è un provvedimento per salvare i profitti di qualche assicurazione probabilmente un po' maldestra o qualche associazione parastatale. magari quella di proprietà dell'amministratore delegato Santo Liquido e magari qualche ente inutile. Ciò premesso, vorrei dire che tutto quello che è stato detto... Adesso non mi metta in difficoltà con gli altri ospiti. Sì, no, io la metto in difficoltà perché quando si fa della disinformazia, e in questo caso bisogna dire subito una cosa. La prima, da 10 anni a questa parte i sinistri sono calati del 40%, e non per bocca mia ma per bocca delle stesse statistiche dell'ANIA. 40%, quindi ci sono 1 milione di sinistri che se ne sono andati via. Il bilancio tecnico dell'RC Auto nell'ANIA è perfetto e va benissimo, ok? Secondo punto, io le faccio un esempio di che cosa succederebbe se venissero approvate queste tabelle e per fortuna il Ministero della Salute l'ha congelata, e mercoledì ci rincontreremo col Ministero della Salute per dire che le tabelle di Milano sono l'unico parametro di riferimento nazionale studiato, approvato dalla Cassazione e votato al Parlamento con una mozione parlamentare che ha avuto 486 parlamentari d'accordo e solo 6 contrari. Probabilmente erano dipendenti di... Allora, mi faccia l'esempio, Stefano, come ho fatto fare l'esempio. Un giovane di 35 anni, l'esempio fatto proprio dal... Sì. dal allora, per un'invalidità del 10% di Milano, oggi, che subisce la perdita totale dell'avambraccio totale di una mano, a che tipo di percentuale di invalidità corrisponde? 50%. Ecco, quindi non il 10 che facevamo però prima. Oggi risarcito dalle tabelle di Milano, viene oggi risarcito con 384.000 euro, e fino a un massimo, compresa la personalizzazione che il dirigente della Garge confonde maldestramente con il danno morale, fino a un massimo di 480.000 euro. Con le nuove tabelle di risarcimento invece il danno base, il danno biologico, sarà solo di 222.000 euro. Questo 10% significa che se anche dovessimo aggiungere il 30% di danno morale si arriverebbe al massimo a 300.000 euro. Quindi per un sinistro una compagnia potrebbe risparmiare da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 228.000 euro, il che è uno scandalo, una porcata. Benissimo, e questa, Stefano, guardi, e questa no, porcata, io... fortunatamente, il Ministero della Salute ha congelato l'ha frenata. Tutto. Stefano, grazie. Non voglio essere scortese con lei perché farla intervenire in questa maniera non potevo fare, però mi mancano 5 minuti prima di concludere e necessariamente sono stati chiamati in causa entrambi gli ospiti di questa mattina, devo farli replicare. Se avete un minuto di pazienza, siccome l'ho richiamato, sento anche Roberto da Livorno, così almeno completiamo appunto il quadro anche delle testimonianze. Roberto, buongiorno. Ce la facciamo adesso? Non c'è niente da fare. Con Roberto è sparito. Allora, Alessandro Santo Liquido, da dove vuole cominciare? Lasciamo perdere le sciocchezze che sono state dette dal punto di vista personale. Sì, comunque volevo dire solo questo. Sul tema di quant'è la percentuale di riduzione, il tema è complesso perché questa tabella è nata 6 anni fa. 6 anni fa il Tribunale di Milano aveva una differenziazione tra danno biologico e danno morale e nel frattempo le ha inglobati, quindi nella tabella originale manca il danno morale che deve essere aggiunto. Quindi quello che i nostri avvocati ci dicono, i nostri giudicatori ci dicono è che la differenza è tra il 10 e il 15%. Poi è utile fare alla radio queste discussioni, bisogna prendere i casi concreti e vedere quello che succede. Però volevo enfatizzare un punto solamente: i nostri valori sono altissimi, sono molto più alti di quelli dell'est Europa. Il Tribunale di Milano, che è preso come riferimento per un caso che ha fatto appunto il nostro amico dell'associazione familiari vittime della strada, per esempio in Francia, quanto viene risarcito? Allora, io poi per carità non voglio sminuire la gravità di una persona che perde un braccio, è solamente per fare un paragone, un parallelo con questa benedetta Francia con la quale veniamo continuamente paragonati, perché hanno lo stesso parco auto, hanno la stessa tipologia di strade, eccetera. Allora, per un 60% di invalidità permanente, in Italia con la tabella di Milano una persona di 40 anni oggi prende 506.000 euro, in Francia ne prenderebbe 170, in Gran Bretagna 103, in Germania 70.000. In Spagna 96, non è detto che siamo, non è detto che siano loro il modello assolutamente virtuoso da seguire. Quello che noi diciamo, scusate, su cui insistiamo, non è, questi sono temi molto delicati, è infatti molto difficile andare, non è un giusto e un sbaglio, è una cosa sbagliata. E può benissimo essere che l'Italia riconosce un valore altissimo al prezzo del dolore. Quindi che può essere giusto, però quello che noi diciamo è che non è possibile che venga stabilito il prezzo del dolore, il prezzo dal tribunale, senza che venga fatto nessuna analisi di impatto di cosa questo vuol dire sulle tariffe. Le faccio questo esempio molto concreto. Milano dal 95 al 2013 ha aumentato in termini reali i valori dei risarcimenti di 2 volte. Quindi vuol dire che a parte se avessero seguito solo il valore dell'inflazione, hanno aumentato il prezzo di volta oltre l'inflazione. Peraltro alcuni casi di tribunali che nel 95 avevano valori molto più bassi di Milano sono stati omogeneizzati a Milano e quindi per esempio a Brindisi il valore di questi risarcimenti è salito da un minimo di 4 a un massimo di 9 volte. Questo vuol dire che se Milano avesse tenuto i livelli di risarcimento che erano dati nel 95, che erano molto comparabili a quelli europei, i nostri prezzi reach out adesso sarebbero più bassi almeno del 20%. Quello che diciamo è che nel decidere il livello di risarcimento uno deve capire che più aumento i risarcimenti, più aumenta il costo del reach out. Si può benissimo decidere di aumentare questi valori. Peraltro ribadisco che qualche giorno fa il Tribunale di Milano ha aumentato questi valori del 6%. Allora, diciamo che tutta la trasmissione stamattina mi è servita per la verità ad entrare in una condizione di grandissima solidarietà con il ministro Balduzzi che ha congelato tutto, perché se questo è il livello anche della polemica che si scatena quando si riuniscono questi tavoli, giustamente il tema è talmente delicato che ha necessità di essere approfondito nella misura migliore possibile da parte di tutte le componenti appunto in campo. Io se ha 30 secondi la Ganà, non le posso dare di più perché devo chiudere a 55, sono già 54:25, ci dica. Sì, velocemente soltanto due appunti alla telefonata precedente. Nel 2011, cito dei dati, su ogni polizza si sono persi 20 euro come compagnie di assicurazioni e sulla parte risarcimento, quello che volevo significare con l'ulteriore valutazione discrezionale del tribunale, non dà la certezza del diritto, che è esattamente il principio che io volevo specificare prima. Allora, io vi ringrazio per essere intervenuti, puntata molto vivace. Walter da Genova, vabbè Piacenza, non sono riuscita a sentirla, ci ritorneremo su questo argomento qualora nei prossimi mesi questo provvedimento si dovesse concretizzare, se si concretizza secondo le modalità che abbiamo detto questa mattina, non oso immaginare quello che succederà. Grazie a tutti e naturalmente ci sentiamo domani. Salva Danaio.